2024 2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, questa è la puntata del 30 e 31 agosto, abbiamo terminato anche il mese di agosto, per una settimana ancora avremo la nostra edizione estiva di mezz'ora, poi torneremo dalla metà del mese di settembre con la nostra versione da un'ora. Scriveteci per proporci argomenti per la prossima stagione, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Naturalmente nel pensare a suggerire argomenti pensate che possano essere argomenti di interesse generale, non troppo specifici di nicchia, magari da troppo esperti che magari sono anche un po' complicati da raccontare. Bene, iniziamo questa settimana parlando delle ultime novità che sono state approvate dal governo nell'ormai noto e famoso Sblocca Italia, poi vedremo se sbloccherà qualche cosa. Allora, in questo provvedimento che è un decreto, che quindi dovrà poi essere analizzato, eventualmente emendato, cambiato dal Parlamento, è inserita una norma che prevede per gli operatori di telecomunicazioni che decidono di investire nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, quindi zone remote del paese, piccoli centri abitati dove la rete internet fatica ad arrivare o comunque non viene aggiornata così come accade soprattutto nelle città, allora è previsto un credito d'imposta che vale sui tributi IRES e IRAP del 30% del costo dell'investimento. Sostanzialmente lo Stato dice: se investi in queste zone dove c'è poca convenienza ad investire, ti faccio uno sconto sulle tasse. Allora, intanto si dà per scontato che invece nelle altre aree si investa, cosa che non è completamente vero, o comunque si sta investendo con una prospettiva temporale di breve medio periodo, non di lungo periodo come invece dovrebbe essere per un'infrastruttura come quelle di cui stiamo parlando, di telecomunicazioni. Tra l'altro va anche detto che Matteo Renzi in conferenza stampa aveva parlato di un credito d'imposta del 50%, in realtà andando a leggere sul sito internet e sul comunicato ufficiale del governo il credito d'imposta è del 30%, vedremo che cosa ci sarà scritto nel testo definitivo, perché come sempre c'è la conferenza stampa ma i testi definitivi dovranno essere pubblicati, quando saranno pubblicati, quando entreranno anche nel dibattito parlamentare si vedranno poi tutte le particolarità e vedremo se questo 30% è 30% o 50%, comunque già questo non è che è molto positivo che ci sia questa confusione. Sul comunicato si legge anche che le aree a fallimento di mercato sono quelle aree dove gli operatori non riescono a portare la banda a 100 megabit, ovvero proprio dove l'Italia è in maggiore ritardo nell'attuazione dell'agenda digitale europea. Allora, chi ha scritto questa cosa vive sulla luna, perché in queste aree non è che non portano i 100 megabit, non portano neanche i 30, neanche i 10, neanche i 2 megabit. Quindi qua stiamo parlando di cose che chissà chi ha scritto, vabbè. Allora, questa norma si combina con quella che riduce da 200 a 50 milioni la soglia per il credito d'imposta previsto per chi investe in opere di carattere strategico, quindi anche in questo caso lo Stato sostanzialmente dice, con un principio che può anche essere condivisibile, ma poi va inserito in una strategia più ampia, se no questo è un brodino che non serve quasi a nulla. Sostanzialmente dice: io Stato non ho i soldi, o comunque non voglio investire in questa infrastruttura, se lo fai tu privato ti riconosco un credito d'imposta, quindi paghi meno tasse. In molti casi però queste zone a fallimento di mercato sono così poco attraenti per gli operatori che non investiranno comunque, almeno questo dicono alcuni esperti, ma io condivido questa posizione. Poi va anche detto che in alcune di queste zone gli operatori hanno già pianificato investimenti e questo quindi è un investimento in cui lo Stato perde solo soldi e non ottiene nessun vantaggio incrementale, non è che ci saranno nuovi investimenti, magari questi sono già stati pianificati e si fa solo uno sconto sulle tasse. C'è anche chi dice, e anche questa è una critica condivisibile, che affidandosi solo al mercato non esiste nessun tipo di coordinamento e pianificazione nazionale sul territorio, e anche questo è sicuramente da tenere in considerazione. Insomma, sulla banda larga si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più. Purtroppo questo è forse a livello di marketing politico ripaga poco, Però sappiamo quanto investire in questa infrastruttura sarebbe corrisponderebbe a favorire un incremento della competitività del sistema paese, delle aziende in primis, e molte aziende sono tra l'altro nelle province dove la rete fatica ad arrivare. Oh, vi dico che il valore delle opere realizzabili con lo Sblocca Italia per quanto riguarda le autostrade, giusto per avere un paragone, è di 12 miliardi e 200 milioni. Però con 12 miliardi e 200 milioni, certo che non vengono investiti domani mattina, ma vengono investiti in un arco temporale di medio periodo, allora con questi soldi si fa quasi la cablatura in fibra ottica di tutte le case italiane. Quindi è sempre una questione di priorità. E uno si dovrebbe domandare, le autostrade che sono state sbloccate, quanto favoriranno la crescita e la competitività del paese? Comunque, la cosa importante è che bisognerà attendere il testo del provvedimento e anche il dibattito parlamentare. Comunque, di sicuro, l'indicazione del governo non è certo a favore di uno sviluppo della banda larga, e questo è abbastanza deplorevole. Adesso abbiamo alcune notizie che riguardano Galileo. Sapete che due satelliti del sistema Galileo, il 5 e 6, che sono stati messi in orbita la scorsa settimana, sono finiti su un'orbita sbagliata. Questo sicuramente è un grave errore, va anche detto che mettere in orbita un satellite in un'orbita così precisa non è mai facile, e quindi ogni volta che accade bisognerebbe fare un applauso. Certo, ci siamo abituati però a voli spaziali che quasi tutti i mesi mettono in orbita satelliti. Va anche detto che i satelliti geostazionari sono un po' più facili da mettere in orbita, un po' più difficili sono quelli che ruotano attorno alla Terra, perché devono essere messi in un punto preciso, ad una angolatura precisa, con un'ellisse di un certo tipo, insomma è una cosa piuttosto complicata. Allora, è stata nominata una commissione d'inchiesta che entro l'8 di settembre dovrà valutare tutti i dati che sono messi a disposizione e dire sostanzialmente se, oltre a capire che cosa è andato storto e quindi eventualmente poi correggere il sistema di lancio e il sistema di messa in orbita di questi satelliti per i prossimi lanci. Ce n'è già uno previsto per dicembre, vediamo poi se verrà rispettata questa data e questa scadenza. Oltre a scoprire appunto quello che è andato storto, anche capire se questi satelliti possono essere, tra virgolette, salvati, e quindi possono essere recuperati, messi su un'orbita utile per il sistema Galileo. Ricordiamo che il sistema Galileo prevede 30 satelliti, 24 operativi e 6 di scorta, e Arianespace, l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale non ha assicurato i satelliti, perché dice, visto che il sistema by design, cioè già dal progetto iniziale, prevede 6 satelliti di scorta, se purtroppo questi due satelliti non dovessero essere recuperati, fanno parte di quei 6 che abbiamo già considerato nelle scorte. Diciamo che il disegno sarebbe invece quello di fare la costellazione, avere 6 satelliti di scorta, e nel momento in cui in corso di funzionamento questi satelliti non dovessero funzionare, si utilizza uno di questi 6 di scorta. Comunque vedremo che cosa dirà la commissione che è stata nominata. Mi sono già messo in contatto con il professor Colasurdo, che è un professore della Università La Sapienza, che giustamente mi ha detto: non mi sembra opportuno che io intervenga e parli prima che la commissione possa decidere, e quindi prima dell'8 di settembre verosimilmente. Vedremo poi insomma quali saranno i risultati. Il professor Colasurdo insegna meccanica del volo spaziale alla Sapienza di Roma ed è stato nominato in questa commissione di 8 esperti che dovrà appunto fare questa valutazione. Bene, detto questo e aggiornato sul sistema Galileo, avremo comunque modo sicuramente di riparlarne dopo l'8 di settembre. Le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che arriva dalla Corea e che riguarda il mondo dei televisori. LG ha deciso di fermare definitivamente la produzione di televisori al plasma. Nei mesi scorsi anche Panasonic e Samsung avevano annunciato la fine della storia del plasma. Per qualità di visione il successore del plasma è l'OLED, soprattutto LG sta spingendo molto sull'OLED. ma ancora i prezzi dell'OLED sono piuttosto elevati. Gli esperti dicono in questo momento, vista la fine della produzione di TV al plasma, sarebbe una buona idea acquistare uno degli ultimi rimasti sul mercato per garantirsi un ottimo prodotto con un'ottima visione, aspettando appunto il calo dei prezzi degli OLED, che comunque continuano a calare di prezzo, e sicuramente il prossimo anno vedremo delle cose interessanti, magari già da questo autunno in vista del prossimo Natale. Un altro addio è quello che daremo a MSN Messenger, il mitico messenger che ha compiuto 15 anni e il 31 ottobre verrà definitivamente spento in Cina, l'ultimo paese dove Microsoft continua ad offrire il servizio, il cui nome era cambiato in Windows Live Messenger. Negli altri paesi, compresa l'Italia, il servizio era già migrato su Skype dopo che Microsoft aveva appunto acquistato Skype nel 2013. Digital News. Lo Stato della California ha approvato una legge che prevede che dal 1 luglio del prossimo anno gli smartphone venduti in California abbiano la possibilità di essere disattivati a distanza in caso di furto. Questo sistema, di cui si parla molto negli Stati Uniti, si sta parlando anche a livello nazionale, si chiama Remote Kill Switch, che vuol dire proprio il tasto che uccide il telefono a distanza. Prevede che siano le forze dell'ordine o il proprietario a poter spegnere questo telefono in caso appunto di furto. Questa funzione esiste già sui prodotti Apple con Trova il mio iPhone, si può appunto bloccare il telefono. In Italia esiste una cosa che non è proprio uguale, ma diciamo evita che un ladro possa utilizzare il telefono, perché esiste una banca dati dell'email, che non è l'email, è l'email, che è una targa del telefono, che una volta che il telefono dovesse venire rubato si va alla polizia, si fa la denuncia, in questa banca dati viene messo questo numero, questo codice che è molto lungo, di molte cifre, e sulla base insomma di questa banca dati tutti gli operatori disabilitano il telefono, e quindi che non si aggancia più alla rete. Il telefono è inutilizzabile su una rete di telefonia italiana, può essere utilizzato naturalmente su altre reti e continua a funzionare, quindi uno può accedere ai dati. È comunque una soluzione che è stata adottata tanti anni fa e che funziona anche in caso di, anche per ritrovare un telefono, perché la rete riconosce appunto il codice identificativo di quel telefono. Altra notizia che riguarda l'Italia: Amazon ha fatto un accordo con Lottomatica per chi non vuole usare la carta di credito su internet, e non si capisce per quale motivo. Comunque, nelle ricevitorie Lottomatica sarà possibile acquistare un codice da spendere poi su Amazon, quindi uno va, lo compra pagandolo in contanti oppure con altro sistema, e poi va sul sito e acquista. Continua a non capire perché la gente non utilizza le carte di pagamento, che in molti casi e collegate a molti conti correnti sono gratuite. Mi stupisco sempre delle file che ci sono anche in autostrada di gente che preferisce pagare in contanti invece che andare nei caselli vuoti o spesso vuoti, dove si può pagare con la carta di credito o anche il bancomat in modo gratuito. Chi lo sa? Però, in attesa di vedere altre novità, l'IFA di Berlino, che si apre la prossima settimana, ricordo che l'IFA di Berlino è la più importante fiera di elettronica di consumo in Europa. Avremo i nostri inviati a Berlino e quindi ci collegheremo con loro e ci faremo raccontare tutte le novità. Allora, in attesa di questo, sia LG che Samsung hanno lanciato nuovi smartwatch. Il nuovo Gear S di Samsung è sviluppato sul sistema operativo Tizen, questa è una notizia interessante, quindi non su Android Wear, ha un modulo SIM integrato, quindi non richiede necessariamente uno smartphone collegato, può chiamare e può ricevere e inviare SMS. LG ha invece sviluppato G-Watch R, un display tondo, perché adesso c'è la battaglia, anche un dibattito sui display che devono avere gli smartwatch, se tondi, quindi simili ai classici orologi, oppure quadrati. Questo di LG è stato sviluppato su Android Wear, è uno smartwatch molto potente, molto simile nel design ad un tradizionale orologio. Ci si chiede ancora se poi gli smartwatch avranno un successo oppure no. Per il momento non tanto. Digital News. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, 30-31 agosto 2014. Vi ricordo che dalla metà del mese di settembre riprenderemo la nostra programmazione tradizionale di un'ora. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete scrivermi per qualsiasi motivo, cerco di rispondere a tutti. Cerco, non ho detto che riesca a rispondere al 100% delle email, però questa è l'intenzione. A proposito di orologi smart, quindi gli smartwatch, molti si chiedono se Apple presenterà a breve il proprio iWatch, così chiamato in termini giornalistici, poi non si sa se si chiamerà così e non si sa nemmeno se ci sarà. Allora, in attesa di sapere appunto se uscirà un prodotto del genere, intanto è ufficiale da questa settimana la data del 9 settembre per la presentazione dei nuovi iPhone a Cupertino. L'Apple sta preparando un grande palcoscenico, un grande teatro, tutto prefabbricato per questa presentazione del 9 settembre. Vedremo se ci saranno anche altri prodotti oltre agli iPhone, che dovrebbero essere quasi certi. In questo caso, insomma, ci sono state parecchie indiscrezioni di stampa. Adesso parliamo di un tema sul quale torneremo sicuramente in autunno per vari motivi, perché la tecnologia si sta affermando, perché cominciano a vedersi alcune soluzioni anche per l'Italia. Parliamo di iBeacon. In generale questa tecnologia la inseriamo all'interno del più vasto capitolo delle comunicazioni wireless a corto raggio, che permettono a due dispositivi di comunicare a breve distanza. Forse la più nota di queste tecnologie è l'NFC o anche l'RFID, o comunque una tecnologia che permette appunto, attraverso un segnale radio, che due terminali possono parlarsi. Che ne so, anche una tesserina all'interno del quale c'è un'antennina può comunicare qualche cosa a un lettore. Che ne so, gli ski pass oramai sono tutti fatti così, uno non deve più inserire nulla all'interno di un lettore, ma basta che passi a breve distanza e il lettore lo riconosce. Ecco, questo fa parte delle tecnologie RFID oppure NFC. NFC viene utilizzato molto, o comunque se ne discute molto, più che utilizzato, comunque si parla molto di pagamenti di prossimità, quindi io arrivo col mio smartphone che ha dentro un chip NFC, lo metto sul lettore e pago. Parliamo di iBeacon, perché questa tecnologia verrà utilizzata. Che cos'è? Come funziona? Simone Zanardi ce lo ha raccontato. iBeacon è un termine che ha la proverbiale I di Apple, classica dei prodotti e dei servizi Apple. In realtà è un protocollo basato su Bluetooth, quindi non è una tecnologia esclusiva Apple, ma che è una tecnologia su cui Apple sta puntando molto. Ha cominciato a introdurla senza neanche troppo clamore lo scorso anno, con tra le caratteristiche di iOS 7, quindi l'ultima versione del sistema operativo per smartphone e tablet, ed essenzialmente è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio, basata su Bluetooth, quindi leggermente diversa da NFC, perché permette comunicazioni anche a distanze leggermente superiori, quindi si va dal centimetro anche a qualche metro, e che Apple vede strategica per la sua visione di commercio in mobilità, ma anche marketing, quindi una sorta di piattaforma che permette di accompagnare l'utente da un lato e il commerciante dall'altro nell'acquisto e nella promozione dei prodotti, soprattutto in ambiente mobile, quindi con lo smartphone come punto di riferimento. Sì, esatto, stiamo parlando ovviamente queste tecnologie, così come NFC, possono essere utilizzate in tanti ambiti. Noi, anche per motivi di semplicità, per farci capire meglio, ci limitiamo agli smartphone, quindi abbiamo detto NFC viene spesso associata negli ultimi anni o negli ultimi mesi ai pagamenti di prossimità, o comunque a delle interazioni di prossimità con uno smartphone. Quindi tipicamente io con lo smartphone che ha un chip NFC lo passo a pochi millimetri, lo striscio sopra ad un POS o comunque ad un lettore, e i due strumenti interagiscono. In questo caso stiamo parlando di Bluetooth in a bassa intensità, però che ha una caratteristica già interessante, cioè che lo posso utilizzare anche a qualche centimetro, addirittura a un metro? Assolutamente. L'iBeacon, inteso come faro, essenzialmente è un sensore

delle gare, quindi in bocca al lupo per le vostre gare. Noi torniamo la prossima settimana, vi ricordo che la versione estiva di 2024 di Mezz'ora in Onda, un po' più lunga in podcast perché in podcast facciamo un po' quello che ci pare, allunghiamo fino a che c'è spazio sui nostri server, quasi magari, torneremo invece con la versione, dicevo, la versione estiva dura fino alla 7 di settembre, dalla settimana successiva, quindi dalla metà del mese di settembre, torna la nostra versione di un'ora. Ci risentiamo la prossima settimana, sabato alle 15, alla domenica alle 23:30, oppure in podcast. 2024. 2024. 31 seconds in.